Yeah, Mozilla is a worldwide open source project. Mozilla è un progetto mondiale open source. Questo significa che chiunque nel mondo può partecipare allo sviluppo dei prodotti Mozilla come Firefox. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Mozilla, che è una fondazione statunitense nella quale lavorano circa 150 persone in tutto il mondo per sviluppare i prodotti Mozilla. Senti, in un mondo così ricco come quello di Internet, perché stiamo parlando di una fondazione non profit? È semplice. Choice and innovation on the Internet. La missione di Mozilla è quella che noi chiamiamo possibilità di scelta e innovazione su Internet. Pensiamo che il web sia così importante da non poter essere controllato da una sola azienda. Quindi vogliamo che Mozilla sia un'entità no profit che possa durare molti secoli per garantire un accesso libero ai contenuti tramite software, PC o altri strumenti. Computers, devices, software, eccetera. Quindi vogliamo rimanere focalizzati su questo obiettivo senza essere distratti dalla necessità di fare profitti. Lei ci ha detto che Mozilla Foundation ha 150 dipendenti in tutto il mondo e comunque per realizzare un software di questo tipo e tutti i software che sono collegati a Firefox sono necessari molti investimenti. E quindi come vi finanziate? Grazie al successo di Firefox. E penso che questo sia uno straordinario successo per l'open source e in generale per i prodotti liberi. Ricordiamo che è completamente aperto. Chiunque lo può scaricare dalla rete e costruirlo a piacere. Grazie a questo riusciamo a ricavare denaro dalle relazioni con molti dei fornitori di contenuti e servizi integrati in Firefox. Things like Google and Yahoo and Amazon and eBay. Parlo di cose come Google, Yahoo, Amazon o eBay. Through the Firefox browser there. Grazie al fatto che gli utenti, tramite il browser Firefox, fanno delle ricerche o del commercio elettronico. In questo modo riusciamo ad avere un rapporto commerciale che finanzia la Fondazione Mozilla. To get funding for the Mozilla Foundation. Prima di parlare della nuova versione di Firefox numero 3, volevo chiederle quali altri progetti esistono all'interno della Mozilla Foundation. So there's Firefox, which is our most well-known product, which is the web browser. Dunque, c'è Firefox, il programma di navigazione sul web che è il nostro prodotto più importante. There's also Thunderbird, which is an email client. Poi c'è Thunderbird, un programma per la gestione della posta elettronica che è altrettanto popolare. And there are a number of other. Ci sono poi centinaia di altri progetti open source che stanno tutti sotto l'ombrello di Mozilla. Se andate sul sito mozilla.org potete vedere tutti i progetti in cui siamo coinvolti. Mozilla.org, you will find out all the information on the different projects under the Mozilla open source umbrella.